4 mattino. Buongiorno, mi chiamo Enrico, abito a Tortona. Anche qua, come in altre parti d'Italia, ci sono degli imbecilli che continuano a correre come dei dementi in giro per la città e degli altri imbecilli, ancora più imbecilli, che portano a girare i cani nonostante siano in quarantena e devono stare in casa. Lo stato di polizia è facile applicarlo quando c'hai i soldi in banca, che puoi campare un anno senza lavorare e abiti in un appartamento di 200 metri quadri. Prova a stare chiuso in casa da 25 giorni in 30 metri quadri, 4 persone, e poi ne riparliamo. Eh sì. Si è detto in questo periodo, qualche volta lo abbiamo letto, che questo virus in realtà non è democratico, perché colpisce in maniera più dura non solo le categorie più fragili dal punto di vista sanitario, ma anche le persone più in difficoltà dal punto di vista economico, e colpisce con più forza, ovviamente, questa situazione, la situazione alla quale siamo costretti, chi vive in un piccolo appartamento, magari con due figli. Non è facile, lo sappiamo perfettamente. Su quelli che vanno a correre, ragazzi, che vi devo dire, là si è fatta una confusione incredibile, perché la prima versione del decreto diceva che si poteva andare. Poi sono arrivate ulteriori restrizioni. Il cane, io non lo so, guardate, ho il difetto di avere un cane, capito? Quindi non sono oggettivo, Però è difficile insegnargli a farla in una lettiera, devo essere sincero, come ad un gatto, anzi praticamente impossibile. E quindi, insomma, a un certo punto uno dovrà portarlo fuori. Certo, se è in quarantena, forse trovare il modo di organizzarsi in altra maniera, una pensione che te lo prende e te lo tiene, ma dipende se c'hai i soldi oppure no. Non, ci sono situazioni che oggettivamente non sono facili da gestire, Va bene, siamo alla seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:18 minuti di martedì 31 marzo. E caro Maurizio da Cervia, che mi scrivi, non solo vanno in giro ma non puliscono gli escrementi. Chiedo scusa per chi ha colazione, chi sta facendo colazione in questo momento, però quella è una questione di inciviltà da sempre, C'è gente che non li raccoglie. Grandi discussioni, grandi dibattiti tra insomma questi che non le raccolgono e le persone invece che insomma, sono un po' più civili. Va bene, si fa per dire. Allora, le prime pagine dei quotidiani sono varie, perché abbiamo un effetto di vieti giù i contagiati, per come la mette giù il Messaggero. Abbiamo un Forza Italiani per come la pone Repubblica. Il virus ora rallenta la corsa, scrive il Corriere della Sera. Il virus frena ma non si riapre fino a maggio, scrive La Stampa. Strada dura ma giusta. Avvenire, questo è il titolo di Avvenire. Il virus frena ma l'Italia resta chiusa, scrive il Quotidiano Nazionale. E poi altri titoli diversi. Aziende furbastri, ecco chi se ne frega, è il titolo del Fatto Quotidiano. Anche il giornale titola sul contagio che frena. Budapeste è invece il titolo del Manifesto, su un gioco di parole su Orbán e su questa attribuzione di pieni poteri. Quello che, e devo dire che il giornale è il più duro su questa cosa qua, è perché il titolo è: c'è il primo dittatore nel cuore dell'Europa, Orbán ha pieni poteri. E ora arriva il reddito di emergenza, è il titolo del Sole 24 Ore, che insomma ci parla anche del decreto di aprile, dei dettagli interessanti sul tema della cosiddetta bomba sociale e la criminalità, ci arriveremo. Libero, il virologo Burioni, una cura c'è. Studio formidabile al San Raffaele, un farmaco antimalarico preso prima e dopo l'eventuale contagio sconfigge il morbo. La verità, al diavolo l'Europa, facciamo da soli un mega bond per salvare l'Italia. E questi sono i titoli principali dei quotidiani. Veniamo a storie che, come sempre, in questo periodo sono storie laterali, ma nemmeno troppo. Storie del territorio, ma nemmeno troppo. Tra le cose che mi ha colpito di più, oggi abbiamo intervistato, e lo avete sentito, il presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo. Una delle interviste che mi ha colpito di più oggi in realtà è sempre da Bergamo ed è in questo caso del segretario dei medici di famiglia. Siamo a pagina 11 della Stampa. L'intervista la firma Giuseppe Salvaggiulo e il titolo è «Troppi malati lasciati a casa, non c'è più la sanità pubblica». Allora, un titolo così potrebbe apparire generico, no? Il racconto di una persona che chiaramente, come molti medici di famiglia, l'abbiamo sentito poco fa, sta attraversando grandi difficoltà. E quando entra nel dettaglio, però, che i numeri stupiscono, no? Il calo dei ricoveri, gli chiede Salvaggiulo, non è un buon segnale, risponde appunto Mirko Tassinari, segretario dei medici di famiglia di Bergamo. Calano perché non c'è più posto in ospedale, talvolta non si ricovera più nemmeno con 85 di saturazione. 85 di saturazione, eh? Ieri abbiamo intervistato un medico che ci ha detto intorno ai 92 bisogna iniziare ad allertarsi. Con 85 di saturazione a Bergamo non si ricovera più. Gestiamo a domicilio situazioni che 2 mesi fa avremmo ricoverato alla velocità della luce. Altrimenti non avremmo 1200 pazienti in ossigenoterapia domiciliare. Cosa cambia? A casa non c'è la stessa assistenza, né diagnostica né farmacologica. In ospedale hai più possibilità di cura. Quanto dura una bombola di ossigeno? In media dalle 12 alle 24 ore. E poi bisogna cambiarla. Provvede la ASL? No, deve vedersela il paziente. Come? È una caccia al tesoro. Chi ha parenti li manda in giro nelle farmacie. 10, 20 tentativi. Poi magari la trovi. E se non la trovi, da una settimana ci hanno dato la possibilità di fornire ossigeno liquido, ma è contingentato. E parla anche del dettaglio del suo, perché ovviamente è segretario dei medici di famiglia di Bergamo, ma è anche lui un medico di famiglia. Lei ha pazienti in queste condizioni. Un centinaio di pazienti malati su 1500. 5 a casa con l'ossigeno, una decina di polmoniti monitorate per telefono. E questo vi dà un po' la misura di come stanno andando le cose a Bergamo e provincia, così come a Brescia e provincia. C'è un altro grande fronte che finalmente si inizia a notare anche in altre parti d'Italia, ed è quello appunto delle case di riposo, delle residenze per anziani. Ci torna il Messaggero, siamo a pagina 13 e siamo a Rieti. Rieti, dove diventano zona rossa le residenze per gli anziani. Rieti, tenete presente che è un piccolo centro, e su 227 ospiti delle case di riposo ci sono 177 positivi tra ospiti e operatori, più della metà. E dunque, che cosa si è deciso? Che questi istituti diventano zone rosse. Anche qua avete sentito poco fa il racconto, no? Dei centri anziani che sono stati tenuti aperti, centri diurni per anziani, e quindi gli anziani che facevano avanti e indietro e portavano all'interno delle case di riposo il virus, e il risultato è quello che ci è stato raccontato solo nella provincia di Bergamo: 600 morti all'interno delle case di riposo, e molti non vengono conteggiati all'interno della cifra che ci viene fornita quotidianamente dalla Protezione Civile, perché a queste persone i tamponi non vengono fatti. Sempre la Stampa, pagina 10, ci porta su un'altra situazione difficile, un'altra situazione preoccupante, che è correlata più che alle questioni sanitarie alla fase che stiamo vivendo tutti i giorni. L'ascoltatore ci diceva prima, sapete cosa vuol dire stare in 40 metri quadri, magari con 2 figli, e pensate che cosa può essere se per questi bambini, se uno dei due genitori è una persona violenta. E dunque viene lanciato l'allarme. Siamo a pagina 10 della Stampa, il pezzo lo firma Monica Serra, e a parlare Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale dei minorenni in Lombardia, competente per 8 province lombarde. Dal 10 al 26 marzo il Tribunale ha emesso 92 provvedimenti urgenti a tutela dei minori, bambini e ragazzi che vivono in famiglie difficili, magari dove uno dei genitori abusa di alcol o droghe e dove i problemi c'erano già, ma soffocati nelle case per via dell'emergenza si amplificano. La convivenza di persone problematiche, fragili, in ambienti ristretti, senza più controlli e senza supporti educativi e psicologici, in questo momento ci preoccupa molto, dice la Presidente Gatto. Senza la scuola, i centri diurni, l'assistenza domiciliare, tutti gli interventi di sostegno per via delle misure di sicurezza, non sappiamo più cosa succede nelle case e quali traumi i bambini siano costretti a subire, se non quando purtroppo la situazione diventa esplosiva. L'ultimo episodio per il quale è intervenuto il tribunale è solo di qualche giorno fa: un padre che col coltello da cucina minacciava di morte la moglie e le sue bambine. Anche in questi casi il problema è legato al fatto che le comunità hanno paura di accogliere nuovi ospiti per il rischio di contagio. Per questo, conclude la Presidente Gatto, abbiamo chiesto ai comuni di attivarsi con le aziende territoriali sanitarie per fare i tamponi ad ogni nuovo ingresso ed escludere così i rischi legati al virus. Ma insomma, come sapete, i tamponi sono pochi, è difficile farli e quindi tutto questo non sarà facile. Questo il racconto per quanto riguarda i minori, che si associa, se volete, a quello che abbiamo fatto nelle scorse settimane. Sono usciti un paio di pezzi sui giornali, sulla Stampa, sulla stessa Stampa, sulla Repubblica, sul Corriere della Sera. L'allarme lanciato dai centri antiviolenza, quelli che si occupano appunto di violenza contro le donne, sul silenzio che c'è in questo periodo. Donne che si presume che siano tornate ad essere maltrattate, però sono di fatto chiuse in casa con i loro aguzzini e non hanno possibilità di contattare l'esterno perché di fatto gli viene quasi precluso l'utilizzo del telefono. La questione delle mascherine, anche qua ancora le questioni che hanno a che fare con la burocrazia, con le cose che non girano e non funzionano, e i racconti dalle regioni ormai li conosciamo. Regioni che rimangono senza mascherine. Il giornale a pagina 7 con Marco Lombardo ci porta su questa questione e sul problema non solamente delle mascherine che vengono prodotte in Italia, ci arriveremo tra un attimo, che fronteggiano comunque una serie di problemi burocratici e che comunque possono rappresentare solo il 10% del nostro fabbisogno, ma sulle mascherine da importazione. Che cosa succede? Che appunto per risolvere il problema bisognerebbe importarle. Il decreto però combina un pasticcio, come rilevano le società che distribuiscono materiale certificato. Prima della crisi, una mascherina ospedaliera ordinata in Cina costava circa 15 centesimi ed è poi, lo ricordiamo ancora agli ascoltatori, no? Ed è poi il motivo per il quale si è smesso di produrre queste mascherine in Italia, perché una produzione a basso valore aggiunto, e parliamo solamente delle mascherine chirurgiche, ovviamente non di quelle che con i filtri. Adesso per farla arrivare in Italia ce ne vogliono più o meno 60, anche se sono state eliminate certe imposte. Sapete quanto rimborserà il governo dopo averle requisite? La bellezza di 16 centesimi. Risultato: si voleva dare una mano all'Italia, l'azienda avrebbe chiesto all'Italia 0,7 euro, ossia 70 centesimi. Qual è il prezzo di costo, in sostanza? Quello che costa comprarle e importarle in Italia. Ma l'Italia, dando 16 centesimi, l'azienda ha deciso di dirottarle in Polonia, dove l'hanno pagate 1,10 euro. Con un mese di ritardo rispetto all'inizio della crisi, ora la Protezione Civile è riuscita a distribuire i primi 10 milioni di dispositivi agli ospedali. Una scorta comunque per 2 o 3 giorni, racconta il giornale. I tentennamenti e poi l'imbuto del decreto hanno però impedito di intervenire per tempo. Veremo anche a qualche bella storia, a partire dalla filiera raccontata oggi sul Sole 24 Ore delle imprese di Bergamo che si alleano e creano una filiera d'emergenza sulle mascherine, dell'ospedale di Milano, quello in fiera, finito in 14 giorni, partiranno i ricoveri anticipati per i malati. E però prima di andare a tutto questo, fatemi una polemica che gira sul web da qualche giorno e sulla quale però torna il Corriere della Sera, perché è proprio il momento sbagliato, devo dire la verità. Siamo a pagina 29, lo racconta Luigi Ferrarella, e sono a insorgere addirittura gli ordini degli avvocati, perché ci sono tutta una serie di legali che su internet, su Facebook, si stanno offrendo per fare causa ai medici. Esattamente in questo momento. Allora, il tema delle cause risarcitorie nei confronti della sanità è ben noto, ne abbiamo parlato spesso, insomma, ogni tanto rinasce la polemica su questo tema, e però proprio in questo periodo forse non è il caso. C'è l'avvocato che dal proprio sito social media giura di essere un mago del non far pagare le sanzioni a chi abbia violato i divieti anti-Covid, chi arringa le famiglie dei morti a chiedere le cartelle cliniche perché poi la prova da responsabilità risarcitoria contrattuale competerà all'azienda sanitaria, e chi su Facebook chiede di farmi pervenire prove di casi specifici di morte per mancata assistenza o altri disservizi. E mentre la Procura di Milano riceve già 10 denunce di asserita mala sanità, c'è pure chi, fingendo sdegnato di posizionarsi all'angolo opposto del ring, vanta che io e il mio studio legale abbiamo deciso di assistere gratuitamente medici e infermieri che dovessero subire azioni di sciacallaggio giudiziario. Ora basta, intervengono i presidenti di tutti gli ordini degli avvocati della Lombardia, annunciando esposti disciplinari all'antitrust, e a nome dei 30.000 legali prendono le distanze da condotte che dietro l'intento filantropico celano lo squallido tentativo di recuperare clientela e cercare visibilità. Una pausa. Mattino. Anch'io sto partendo per il turno giornaliero di trasporto di tamponi tra gli ospedali del Friuli. È veramente pesante, giorno e notte sempre disponibili e sempre correre. Non c'è la volontà di fare una turnistica in modo che qualcuno lavori di giorno, qualcuno lavori di notte. Se un giorno ho tot numero di nuovi contagi e fanno un certo numero di tamponi, il giorno dopo mi viene detto che il numero dei contagiati è diminuito, ma so anche che mi viene detto che il numero dei tamponi che sono stati fatti è la metà del giorno precedente. Che senso ha? Oh, qua entriamo in quello che secondo me è un po' un tema, è un tema che rimane sotto traccia in questi giorni, ed è il tema di quanto siano affidabili questi numeri che ci vengono consegnati ogni giorno, da dire che sono gli unici certi dei quali disponiamo e quindi su quelli dobbiamo basarci. Ci sono proiezioni anche recenti di queste ore dell'Imperial College di Londra, per esempio, che ha stimato un'incidenza molto più alta del coronavirus in Italia, ma non solo loro, così come le stime sui morti. E certo, un piccolo ragionamento su questi numeri che vengono forniti alle 18, perché poi la questione tamponi, anche i tamponi, il risultato non ce l'ha immediatamente del tampone, e quindi è lo scoppio ritardato dei tamponi, che erano molti di più fatti due giorni prima, o sono i tamponi di ieri? Anche questo non è chiaro. Come capite, c'è, ripeto, un po' di confusione sui dati fin dall'inizio, a dire il vero, così come quelli sui morti, come abbiamo ampiamente raccontato. E all'ascoltatore che va in giro per il Friuli a consegnare tamponi, dai. E dunque questa seconda parte della rassegna stampa la iniziamo con un po' di notizie che ci danno conforto e che ci danno speranza. Non entriamo sul tema dei numeri, come dicevamo, che è un po' complesso e a mio giudizio ormai piuttosto controverso, anche se continuerò a darveli all'apertura delle 6.30, continuerò a darveli perché sono i numeri ufficiali, quelli dati dalla Protezione Civile e a quelli in parte dobbiamo attenerci e su quelli poi si basano anche le decisioni politiche. E anche su questo dovremmo riflettere, se sono numeri affidabili oppure no. Comunque, è un tema di dibattito e resta aperto. Vi voglio portare però su due storie buone, due storie che ci danno qualche segnale di speranza. Abbiamo parlato prima delle mascherine, dei problemi burocratici e economici che incontra questa questione, anche l'importazione di mascherine. Il Sole 24 Ore, a pagina 13, nelle pagine di Economia e Imprese, con Cristiana Gamba, ci porta nel cuore dell'emergenza delle ultime settimane, ossia a Bergamo, dove sta nascendo una filiera che mette dentro grandi gruppi esattamente per la produzione di mascherine. E guardate, è proprio un buono specchio di quello che può fare l'Italia e possono fare alcuni territori italiani, possono fare alcune eccellenze imprenditoriali italiane. C'è mascherina e mascherina. Quella che tre imprese della Bergamasca stanno per certificare è del tutto particolare. Anzitutto per il nome, mascherina Mola Mia, che nel dialetto locale significa non mollare, molla mica, insomma, non mollare. In secondo luogo per il profilo delle aziende che la stanno producendo, il cui core business è lontano anni luce dalla realizzazione di questo dispositivo di sicurezza. Si tratta della Radici Group di Gandino, la Plastic di Albano e il Maglificio Santini di Lallio. Sono la testa di ponte di una task force di 32 aziende del territorio chiamate a raccolta da Confindustria Bergamo in lizza per ottenere il via libera alla produzione di mascherine ad uso sanitario e per i lavoratori con i requisiti previsti dal decreto Cura Italia. È uno degli 8 progetti su 500 arrivati da tutta la Lombardia ad aver ricevuto l'ok del Politecnico di Milano ed è interessante perché prendete la Radici produce un materiale, racconta Angelo Radici, che ne è il presidente, solitamente destinato ad applicazioni come automotive, edilizia, agricoltura, settori che richiedono importanti prestazioni tecniche. Vedendo l'aggressività di questo virus abbiamo pensato che delle proprietà così elevate potessero essere sfruttate e ci siamo messi in gioco rendendo disponibili la nostra tecnologia e le nostre competenze. Credo, racconta, che questo periodo di difficoltà ci sta insegnando a cogliere le opportunità del territorio, uno dei più ricchi per capacità di innovare e andare oltre, ci stia facendo capire l'enorme valore di una filiera coesa e solidale. È esattamente questo, se la fatica dei tre pionieri andrà in porto, spiega il direttore di Confindustria Bergamo Piantoni, procederemo alla creazione di altri gruppi e per gemmazione condivideremo il sapere necessario. Come vedete, ci si muove, l'industria italiana anche si muove, così come si muovono le istituzioni, si muovono i donatori e fanno sì che nel giro di 2 settimane, qua ci spostiamo sul Corriere della Sera a pagina 5 con Simona Ravizza, venga realizzato il famoso ospedale in fiera con ricoveri anticipati per i malati. La battaglia dei posti letto fondamentale per salvare i pazienti in fame da ossigeno. Nonostante il rallentamento dei contagi, in Lombardia resta il problema di dove mettere i malati da Covid-19, il motivo per il quale oggi sarà inaugurato l'ospedale tipo Wuhan alla Fiera di Milano e dentro un paio di settimane saranno creati 3.000 nuovi posti letto per ricoverare chi è a domicilio. È il tema del quale parlavamo poco fa, che leggevamo anche nell'intervista al segretario dei medici di base di Bergamo. Troppo spesso i pazienti arrivano in ospedale già in gravi condizioni, il grido d'allarme raccolto in più di un'occasione dal Corriere in questo caso, ma insomma un po' da tutti noi. I primi posti saranno a disposizione nel giro di 48 ore nel tentativo di rispondere all'emergenza sempre più pressante di chi è a casa e può aggravarsi da un momento all'altro. I letti nelle rianimazioni lombarde intanto sono passati e guardate che anche questo è un segnale significativo, nonostante la crisi, da 724 a 1650, ma il timore è che non bastino ancora, così dopo 2 settimane di cantiere, la caccia ai ventilatori e alle altre attrezzature, la benedizione dell'Arcivescovo di Milano, oggi ci sarà la cerimonia di inaugurazione. Sarà una cerimonia di inaugurazione ovviamente un po' particolare, no? Per così dire, sarà una cerimonia che non avrà il consueto assembramento di persone che possiamo immaginare, però è una cerimonia di inaugurazione che ci dà qualche segnale di speranza. Segnali di speranza che vengono cercati in molte regioni del Mezzogiorno, in molti comuni del Mezzogiorno, dove si attende con una certa ansia questo stanziamento previsto dal governo e che qualche polemica la sta suscitando, i 400 milioni di euro inviati ai comuni per aiutare le famiglie che si trovano maggiormente in difficoltà, e poi quest'ipotesi di reddito di emergenza che ben ci racconta, insieme a tutti gli altri provvedimenti in arrivo, Gianni Trovati, a pagina 2 del Sole 24 Ore. Ma rimaniamo un attimo sulla questione del Mezzogiorno e dei rischi che si corrono in questo momento, perché c'è un disagio sociale, e questo disagio sociale è evidente. I rischi è che che le mafie, la criminalità organizzata, cavalchi questo disagio sociale. Ne parleremo poi alle 8:20, avremo ospite il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, ma intanto il Sole 24 Ore ci presenta due interviste interessanti. O meglio, due segnalazioni interessanti. La prima arriva da Pasquale Angelo Santo, generale di divisione, comandante del ROS, il reparto operativo speciale dei Carabinieri. Il pezzo lo firmano Ivan Cimmarusti e Sara Monaci e ci dicono: così le mafie, il titolo, tenteranno di strumentalizzare il disagio sociale trasformandolo in protesta. Le analisi dei Carabinieri del ROS ricostruiscono la forza delle mafie, dell'andrangheta, dotata di un assetto organizzativo fluido in grado di adattarsi a ogni circostanza, sfruttando a proprio vantaggio anche questa emergenza sanitaria. Ciò che emerge è un codice della colonizzazione, come spiega il comandante del raggruppamento, il generale di divisione, appunto, Pasquale Angelo Santo, è oggetto di attenzione all'eventuale salto qualitativo che la criminalità mafiosa tenterà di fare, orientando strumentalmente il disagio delle imprese dei singoli, provocato dalla crisi di liquidità, al fine di ricavarne consenso sociale. L'attenzione si sta focalizzando in particolare sul fronte imprenditoriale. Le spie sono soprattutto nel centro-nord, dove l'andrangheta, illustra Angelo Santo, si infiltra in sostanza a seconda che si tratti di regioni dove investire capitali sporchi o dove risultano insediamenti locali delle cosche. Quindi, a questo punto, come racconta sempre sul Sole 24 Ore, in questo caso intervistata da Marco Ludovico, Anna Paola Porzio, che è il commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, insomma, le aziende in crisi di liquidità, nord, soprattutto le famiglie, le piccole e medie imprese, si potrebbero ritrovare con capitali mafiosi all'interno, il rischio di racket, il rischio di usura, il rischio di ricevere prestiti dalla criminalità organizzata, che è l'unica che in questo momento potrebbe avere ampia liquidità, ebbene, è forte. Traffico. Ma se uno va a correre o va a passeggiare in un posto isolato di notte, o comunque non entra in contatto con nessuno, ma ne beneficia a livello psicologico e fisico, non capisco che male faccia. Non riesco a capire qual è il contagio che può provocare nei confronti di qualcun altro. Se non incontra nessuno, non vede nessuno, in un contesto isolato, che cavolo può fare uno che corre? Scusate, questo accanimento. La sanità pubblica non è vero che non esiste, è che la sanità pubblica sta avendo e ha avuto un gran colpo, però regge e resiste. Quello che andrà pensato è di cambiare e rivedere le regole del gioco, una fra tutte che non può essere soltanto una sanità ospedale centrica, e anche le regole del territorio vanno cambiate. Una fra tutte è che dovremmo essere, a mio avviso, tutti medici appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, anche i medici territoriali. Quindi questo è l'unico sistema per poter governare al meglio il sistema pubblico e non creare una frattura, una divisione così profonda fra territorio e ospedale. Oh, ottimo spunto questo, eh? Ottimo spunto. Non è necessario concordare, però che si debba riaprire un dibattito su come è organizzata la sanità pubblica, su come sono attribuiti i poteri alle regioni e allo Stato, su come si può gestire un'emergenza sanitaria mantenendo un certo grado di autonomia regionale, beh, insomma, questa vicenda ce lo insegna sicuramente. Così come ci insegnerà a distinguere un po' più chiaramente quali sono le classi tra le classi dirigenti, all'interno delle classi dirigenti, chi sa fare il suo lavoro e chi non sa farlo. Oh, sul tema del correre, ragazzi, ne abbiamo parlato all'infinito. Io non lo so, guardate, io potrei anche essere d'accordo, cioè se vai in un campo da solo a correre, sì, va bene, non contagi nessuno. È vero anche che se vai in un campo a correre da solo e ti spacchi una gamba, poi devi andare in ospedale. E andare in ospedale in questo momento e affollare un pronto soccorso non è il massimo. Quindi il consiglio di stare a casa dipende anche da questo, dai rischi che si corrono quando vai fuori e ti vai a fare la corsetta, se cadi e ti fai male. I ciclisti sono stati i primi a capirlo, perché là è più facile farsi male da ospedale, ecco, mettiamola così. E però sullo stare da soli, sì, in parte ha ragione. Poi io vedo, insomma, la racconto sempre, perché la settimana scorsa mi ha colpito, no? I due vecchietti, cioè la coppia di anziani che è uscita, è andata per campi a fare asparagi. Li hanno fermati mentre erano per campi, erano marito e moglie, erano per campi a fare asparagi e li hanno denunciati. Insomma, anche a me lascia perplesso una cosa di questo genere, però anche così è. Allora, un altro paio di punti vi voglio portare. Un po' su tutti i giornali trovate la questione, il Covid visto dall'estero, con l'America che si prepara, gli Stati Uniti che si preparano alla loro battaglia, il presidente americano Donald Trump che annuncia questi 100 milioni in arrivo per l'Italia. Donald Trump, che lo abbiamo raccontato anche ieri, cresce nei sondaggi. E un po' su tutti i giornali trovate la questione di Orbán, che è il grande punto di riflessione europeo in queste ore, insieme a tutta la vicenda dei Covid bond, che però per il momento è rimasta un po' più sotto traccia. Allora, se per Avvenire a centropagina c'è questa foto con il virus che incorona Orbán, pieni poteri sull'Ungheria, il manifesto, lo diciamo prima, ha una prima pagina che si intitola Budapeste, facendo un gioco di parole tra la capitale e appunto la peste, raccontando un po' di questi pieni poteri presi da Orbán. In realtà il giornale che più la mette giù dura, quantomeno nel titolo, è Il Giornale, il quale titola, parlando della prima dittatura nel cuore dell'Europa. Che cosa è successo? Lo racconta bene Emanuela Gatti, andiamo proprio sul giornale, a pagina 17, possibilità di governare per decreti, di sospendere il Parlamento e alcune leggi esistenti, di incarcerare chi diffonde notizie false e chi viola la quarantena, oltre che di bloccare qualunque elezione o referendum finché tali misure saranno in vigore. Il problema è che queste misure saranno in vigore per un tempo illimitato. Ieri pomeriggio il Parlamento ungherese ha approvato, 137 voti favorevoli, 53 contrari e 9 astenuti, un pacchetto di norme straordinarie per contrastare l'epidemia da coronavirus, che di fatto dà pieni poteri al primo ministro e del quale queste sono le novità considerate più controverse. Sarà lo stesso premier a decidere fin quando resteranno valide, sarà lui stesso a decidere fin quando resteranno valide queste misure, perché le nuove leggi estendono a tempo indeterminato lo stato di emergenza dichiarato in Ungheria lo scorso 11 marzo, nonostante al momento il paese sembri mantenere sotto controllo la situazione con 447 contagiati e 15 vittime a ieri, a quanto comunicato dal governo, il regime straordinario cesserà con la fine dell'emergenza. Sono norme limitate nel tempo e nell'obiettivo, ha detto il segretario di Stato Bence Retvari, anche se lo stesso Orbán ha spiegato di non aspettarsi il picco di contagi prima di giugno o luglio. E dunque, insomma, molti giornali lo dicono, se non è una dittatura poco ci manca. Oh, fatemi chiudere con due storie un pochino più leggere, sempre collegate in parte. La prima ce la racconta Pietro Del Re su La Repubblica, pagina 20. Lo shock e rabbia, il Van Gogh in prestito rubato in Olanda. Per trafugare un bellissimo dipinto di Vincent Van Gogh, i ladri hanno approfittato della chiusura di un museo per la pandemia di coronavirus. È accaduto al Singer Lauren Museum, una trentina di chilometri da Amsterdam, dove alle 13:15 di ieri notte è stato rubato il giardino della canonica a Nuenen in primavera, che l'artista olandese realizzò nel 1884. Per introdursi nel museo, i malfattori hanno sfondato una porta a vetri facendo scattare l'antifurto. Hanno poi agito molto in fretta, impossessandosi del quadro e dileguandosi prima che arrivasse la polizia, la quale una volta sul posto non ha potuto far altro che constatare il furto. L'opera era stata recentemente valutata intorno ai 6 milioni di euro, un valore economico ma anche artistico. La tela era stata prestata dal museo di Groningen, nel nord del paese. Evidentemente è stata prestata a un museo che non è stato in grado di gestirne la sicurezza nonostante il coronavirus. E chiudiamo con pagina 12 del Quotidiano Nazionale. A proposito di poveri e ricchi, lo dicevamo prima, chi insomma chi ha più soldi questa quarantena la vive meglio e sicuramente la vive nella maniera migliore il re thailandese. Lo racconta Riccardo Iannello, il racconto arriva da Garmisch in Germania. Il telelavoro non è mai stato un problema per Rama X, che fin da quando è salito sul trono del Siam 2016 ha passato più tempo nella villa in Germania che in patria, governando a distanza uno dei paesi più complessi del mondo. La Thailandia vive con tradizioni politiche molto aspre, con scontri sociali e interventi dei militari, per i quali Rama X ha una particolare simpatia, avendo fatto carriera in esercito e aeronautica, alternando però la pratica ascetica di monaco buddista. Beh, poco asceta, perché in questo momento Sua Altezza Reale è in Germania, in isolamento volontario a Garmisch, dove ha prenotato l'intero Grand Hotel Sonnerbischl. Fra i suoi aiutanti, 20 concubine, nonché la quarta moglie Sutida, anche lei che prima era nell'harem. Un esilio. Niente male, niente male. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella. Avremo prima il procuratore nazionale antimafia, Cafiero De Raho, e poi avremo ospite il ministro alle attività produttive, Stefano Patuanelli, così ci vorremmo raccontare un po' di cose, magari risponderemo anche un po' di domande di imprenditori e ascoltatori sui provvedimenti economici. A dopo.